mondo poco domani e la vi fa per sposa ed io vi canta intorno la serenata l'anno ai deserti piani là nella valle ombrosa o quante volte a voi l'ho ricantato o quante volte l'ho ricantato io ti sto sempre accanto che t'ha dato a voglio